Al secondo episodio di Micio Sigone Triforce o Triforce che dir si voglia. Siamo di nuovo noi qui, pezzi grossi della Micio Sigone Games. C'è Vario Punk, Pietro Turri. Poi abbiamo il vice direttore, mi sembra ammiraglio. Che sia il vice ammiraglio, il suo titolo, Claudio Turri. Direttamente dal mondo Nintendo per voi. Poi abbiamo responsabile marketing Riccardo Prati. Ciao. Ciao, sempre l'enfasi a mille. E poi abbiamo un ospite speciale oggi, Marco Giardi, Gira 93. Ciao a tutti grandissimi. Marco è un blogger che tiene dei video giornalieri, vero? Esatto, sì. Sì, se vuoi dare le coordinate dei tuoi video. Allora, il canale di YouTube è PSP Forever 74, perché Gira 93 era già occupato. Da te o da qualcun altro? No, penso da me, ma mi ero dimenticato la password e l'indirizzo email, quindi ne ho fatto un altro prima. È sempre allora, una questione. Sì. Allora, inizio subito io? Sì, cosa hai intenzione di recensire oggi? Allora, oggi farò la recensione di Grey Matter, che è un gioco di avventura punta e clicca, anche abbastanza recente, dell'anno scorso, e nasce dalla penna di Jane Jensen, che è molto famosa per la serie Gabriel Knight. Sì, sì, sì. E diciamo che è una specie di ritorno ai videogiochi, perché è parecchio tempo che non si faceva più sentire. Il gioco si presenta come un'avventura punta e clicca in 2,5D, quindi classici sfondi pre-renderizzati con personaggi in 3D. Come piace a noi. Esatto. E la cosa che mi ha stupito immediatamente è che si è la scollatura della protagonista, anche con il tatuaggio, e che si può impostare qualsiasi risoluzione si vuole. Mm-hmm. Quindi almeno io che gioco ai giochi anche di qualche anno fa, almeno quelli tipo Siberia o simili, non si poteva impostare una risoluzione più alta di 800x600. Sì. E invece qui si può andare a qualsiasi risoluzione, il risultato grafico è veramente molto bello. La storia è proprio alla Gabriel Knight, diciamo. Abbiamo questa illusionista che si chiama Samantha Everett, Sam, che si intrufola dentro la casa di un dottore, e spacciandosi per la sua segretaria. Mm-hmm. E praticamente fa degli esperimenti assieme a lui, viene coinvolta in una serie di esperimenti abbastanza strani. Si tratta di un'avventura abbastanza thriller, misteriosa, e quindi deve capire chi è questo dottore e come riesce a fare queste stranezze, insomma. Chiaro che non posso rivelare molto, perché la trama è abbastanza, cioè si cade nello spoiler in un minuto parlando di questo gioco. La cosa che carina è che, oltre alla classica interfaccia punta e clicca, ci sono delle sessioni di gioco in cui bisogna fare delle magie. Mm-hmm. E quindi si ha a disposizione un libro di magie e bisogna interpretare quello che c'è scritto, i passaggi per effettuare la magia e riuscire a risolvere la situazione. Un esempio velocissimo: quando bisogna prendere la tessera per entrare dentro la biblioteca. C'è una ragazza che ne ha due e quindi si fa un trucco di magia per cui lei pensa che noi abbiamo distrutto la tessera e invece ce l'abbiamo ancora. Quindi sono un classico trucco di magia. Vedo qua che è uscito anche per Xbox 360, quindi Sì, no, questo stavo non lo guardando su sapevo. Mobile Games e lo mette per PC e Xbox 360. Infatti non lo sapevo. Poi che dire, il comparto audio è ovviamente spettacolare perché si parla di Jane Jensen che ha avuto come aiuto nell'audio suo marito, se non sbaglio, che è comunque un musicista. Adesso non riesco a trovare il nome. Art Director. Ecco, la musica non c'è nei crediti di Moby Ah, ecco, perfetto. No, mi sa che c'è. Sì, ci sarà scritta nella recensione, probabilmente. Comunque, mi sta appassionando veramente tanto. Certo, ci sono anche dei limiti tecnici e bisogna dirli, perché si usa. Cioè, è molto usato il fade to black, la dissolvenza al nero, Games. quando ci sono delle azioni un po' complicate da far vedere a schermo, come ad esempio aprire una porta, per dire. Quindi si sente il rumore della porta che si apre, ma lo schermo sta diventando nero. Quindi tecnicamente non è fantastico, però Sempre un po' comunque. Resident Evil, sembra. Esatto, comunque c'è. La storia è veramente molto bella. Ed è fatto molto bene. Sto guardando qua se c'è qualche altra informazione, però non riesco a trovare il nome Del del marito. compositore, sì, del marito. E un'altra nota è che le cutscene, no? I filmati di intermezzo sono tipo disegnati, hanno questo stile un po' come fossero un fumetto, cioè non un fumetto, disegnati a mano. È bello, è un bello stile, però non si muovono, cioè sono fissi e ci sono i sottotitoli delle persone che parlano. Risparmio. Quindi, esatto. Diciamo che se Jane Jensen avesse avuto più fondi, magari usciva un gioco migliore. E la localizzazione è in inglese con i sottotitoli in italiano. Una scelta secondo me azzeccata perché il doppiaggio in inglese è veramente fatto molto bene. Quindi meglio evitare di fare doppiaggi In Half-Life italiano. 2 Sì. se ci avete giocato in italiano. Ma credo che in Italia alla fine lo studio migliore doppiaggio sia quello a cui si affida la Pendolo di solito, che sono veramente bravi. Per Esatto, il esatto. resto. Sì, no, infatti ce n'è pochi. Bene, Sai che io penso di aver concluso. ho trovato un Dimmi. Un errorino errorino? guardando gli screenshot. Cioè? Se tu guardi la copertina del gioco, lei, lo screenshot è il tatuaggio famoso della scollatura. Ce l'ha a Aspetta, destra. Se tu invece guardi il menu delle magie, ce l'ha a sinistra. Su dov'è che l'hai visto su Mobi? Mobi, lo screenshot delle magie. E poi sono andato a vedere la copertina così su Google. E nella copertina è dall'altro lato. Vabbè, scusa, le magiche. È una maga. Infatti. No, aspetta, anche qui a sinistra, solo nella copertina a destra. Ecco, non è la copertina. Ah, hanno ribaltato l'immagine, ecco perché. No, no, lasciate stare. Hanno ribaltato ma cosa? La copertina o la foto del libro di La magie? copertina, sul sito Game Pressure hanno preso l'immagine e l'hanno ribaltata, per quello. Ah, ecco. L'hanno fatto apposta per ingannarti. Purtroppo. Esatto. No, comunque dai, la consiglio veramente. Poi si trova anche a poco prezzo come tutte le avventure grafiche perché. Si Sì. compra scatolato, digital Massimo di delivery. 30 euro. No, si compra. Io l'ho vista posso dire il nome, sì. Al Sì. Perfetto. GameStop. Cioè, non è scatolata, è in DVD, cioè la custodia del DVD classico. Chiama Keep Case. Com'è che si chiama? Keep Case. Ah, era a 9,99 euro. Ecco, beh, quindi beh, direi che l'acquisto è quasi ovvio. E c'era anche il 3x2, quindi volendo se ne potevano prendere altri di giochi. Ah, quindi infatti, se si è appassionati di avventure grafiche, col 3x2 a GameStop, con 30 euro ti porti a casa tre titoli, anche con meno, ti porti a casa tre grandi titoli. Sì, esatto. Il mercato delle avventure grafiche ha un costo relativamente basso. Esatto. Confronto ai giochi di ultima generazione. Esatto, io avrei finito la recensione. Adesso do il mio voto in banane, giusto? Aspetta un attimo, volevo chiederti una cosa. Ho visto che dagli screenshot che è molto fiabesco l'ambientazione in certe stanze. Sì, diciamo che alcune stanze però in generale si tende più al gotico, diciamo, al dark come stile. Però sì, in alcuni, infatti sto guardando anch'io alcuni screenshot che non sono ancora arrivato in quei punti là. Stai spoilerando. Sì, un po'. Sembra, sì, è uno stile un po' diverso dal Gabriel Knight, diciamo. Beh, comunque si parla di giochi di prestigio e magia qui. Esatto, esatto. Tra l'altro la Jensen mi sembra che stia abbia un progetto su Kickstarter adesso per un nuovo gioco. Ah, non lo so questo. Ci guardo anch'io Kickstarter, mi sa di sì. L'avevo letto su un noto sito di avventure grafiche che non si può citare, Adventure Planet. Ah, non si può citare? No. Per fortuna no. Ecco, l'ho trovato. Take the Road? Anch'io. Sì, sì. Jane Jensen, Mobius and Pinkerton Road Studio, sì. Però non so se è Mobius, a new adventure game from the creator... Ah, sì. Ok, sì, era una Way serio, se vai a vedere gli screenshot in basso. Eh? Era una Way in versione più gotica seria. Ah. Se vai giù a guardare gli screenshot. Ah sì, eccoli. Invece di interpretare un nerd cartoon, interpretiamo il belloccio gotico. Eh sì. Ah vabbè. È a Venezia, però. È buona questa cosa qua, cioè... Anche se non mi piace molto Kickstarter, è buona comunque. Ah, più giochi di qualità escono, meglio è. No, no, certo, chiaro, però... Anch'io, sinceramente, questi siti non darei mai dei soldi, no, però... infatti... Non li ho i soldi, quindi... No, ma non, neanche io li darei, anche perché, cioè... Chissà quando esce, se esce... E non puoi mai sapere come va avanti. Che tra l'altro ho visto gente... veramente dare soldi a giochi indie che le possibilità che escano sono veramente ridicole. Sì, sì, infatti. Vabbè. Quindi passiamo al voto del gioco, se non hai nient'altro da aggiungere. No, no, no, mi sembra di aver detto più o meno tutto, chiaramente senza entrare nello spoiler. Che è difficile non entrare nello spoiler. Infatti, perché volevo dire più cose, però... Si rischia. Evita, perché un questi. Giorno penso di comprarlo anch'io, un giorno. Quindi compralo, perché è veramente bello. È che ho la lista di giochi di avventure da comprare parecchio lunga. Ah. E con Deponia che esce a fine mese si allunga ancora. Ah, ecco. E con pochi soldi, immagino. Ah, sì. Quello sempre, normale. Anche io sempre. Quindi, quante banane da 0 a 5 daresti a Grey Matter? Allora, io darei 4 banane. La quinta sarebbe stata... Ecco. Okay. La quinta sarebbe stata meritata se non ci fossero stati i limiti tecnici che ho detto prima. Sì, la quinta è ormai nella generazione moderna è semi-irraggiungibile. Esatto, quindi diciamo che 4 è quasi il massimo, dai. Sì, diciamo. Solo Grim Fandango si merita le 5. Esatto. Anche Grim Fandango ha limitazioni tecniche. Lo diremo tutte le puntate, parleremo 10 minuti di quanto Grim Fandango meriti 5 banane. Esatto, ormai è una cosa abbastanza appurata. E invece, intanto che siamo qui a parlare delle votazioni, secondo voi è un gioco da zero? Da zero? È difficile da dire. A me viene in mente Alone in the Dark 5, che veramente è l'unico gioco in vita mia che mi ha fatto pensare ho buttato via dei soldi. Ah, guarda, mi sa che sono d'accordo con te. Meno male che io l'ho preso con una rivista e non l'ho comprato. Ecco. In negozio. Te l'hai preso per PC con giochi per mio computer, tipo. Esatto, sì. Io sì. Per Wii, purtroppo. No, io il tempo che l'ho installato 10 minuti, poi ho visto che il mio PC non ce la faceva, ma era colpa del gioco, perché è ottimizzato come... La merda. Esatto. Diciamolo. E volevo andare di peggio, però mi sono fermato. Ho ottimizzato malissimo e allora l'ho lasciato stare. Ecco, anche la versione Wii praticamente hanno preso quella delle altre console e l'hanno schiaffata a forza dentro il Mamma Wii. mia. E tra l'altro è anche un gioco orribile anche senza quella conversione, quindi proprio. Sì, no, infatti è proprio brutto brutto. No, io personalmente non ho mai giocato un gioco da veramente dire ho buttato via dei soldi. Sinceramente, l'estremo così non l'ho mai trovato. Infatti Per anche a me fortuna. viene in mente solo Alone in the Dark 5, cioè. Sì, infatti anche a me Meno adesso che l'hai detto. male. Per quanto un gioco sia, possa essere brutto, sempre. Almeno due o tre banane l'hanno sempre prese. Esatto. Una almeno, zero Una, proprio esatto. quello. Te invece? Ma nel gioco compaiono poche banane. Comunque bisogna anche dire che nel menu tu puoi andare direttamente alla fine del gioco, Sì. sia nei capitoli. Nella versione Wii, non so se in tutte, in quel gioco, tu puoi scegliere da che capitolo giocare, anche Sì. l'ultimo boss. Anche la versione PC. Cioè, anche l'ultimo boss, tu puoi, appena installi il gioco, puoi provare a battere l'ultimo boss. Sì, Au. Che è. senso Ci ha? sono Se i bug che non ti fanno andare all'ultimo boss, devi andarci dal menu. Sì. È più o meno È così, buggato appunto. da far paura. Mi ricordo che un mio amico che in Frenzy lo comprò subito appena uscito per Xbox, mi sembra. Quando arrivò a Central Park, guidando la macchina, venne scagliato da un mostro abnorme, tipo un rinoceronte, una cosa assurda, contro via, volò via. La macchina volò talmente avanti, passando i muri invisibili del gioco, che arrivò in una zona più avanti del gioco. Solo che non avendo attivato gli eventi trigger, quelli che comunque Sì. ti sbloccano per andare avanti, lui era bloccato in sta stanza con un personaggio che non si attivava e non gli diceva cosa doveva fare. Beh. Cioè, era riuscito ad arrivare a fare sta cosa, a superare i muri invisibili Mamma mia. col lancio di un mostro. Che schifo, dire la verità. Allora la prossima puntata lo recensiamo. No, che mi costringereste a Località. licenziarlo, cioè. Mi si Io spegne il sono arrivato computer solo a tipo. pensarci. Alla terza missione, alla fuga con la macchina, e l'ho provata 6-7 volte, ho detto basta. No, Adesso Central dovrei Park l'ho provato. procurarmelo legalmente a modo suo, nel senso. No, te lo sconsiglio, guarda. Uno Dici che spreco spreco di la banda. commissione? Sì, è uno spreco di Esatto. banda, lascia stare. È veramente, veramente brutto. No, no, io Ok. proprio, cioè, l'ho installato, visto che anche il menu andava a scatti, cioè è impossibile una roba del genere. Madonna, Tutto al è grave minimo, allora. sì, tutto al minimo andava a scatti, no, ho lasciato stare, l'ho provato a iniziarlo, ma era talmente brutto che... Tra l'altro, guardando le recensioni che ha in rete, bene o male naviga sul 5 e 6, però c'è anche chi ha avuto il coraggio di dargli 8. Vabbè. Però di Ah. banane non ne ha comunque. No, banane non se ne Banane parla. no. Come ha fatto a dargli 8? Vabbè. Dipende Sarà il chi l'ha creatore che recensito, sarà infatti. nato. Ah, sono tedeschi. Non si... La recensione è in tedesco, quindi non riesco a Ah. comprendere, mi spiace. Vabbè. Bon, ora possiamo parlare. Vuoi andare te con Mist of Pandaria? Bene. Sì, dai, farò breve Riccardo ci introduzione. farà un'ampia anticipazione della prossima espansione Ma che ampia uscirà. non tanto, dirò quello che so, tanto. No, no, ampia, ampia. Hai provato anche Ampia. la beta, quindi ampia. Ampissima. La prossima Allora. espansione di World of Warcraft che uscirà quando? Il 25 settembre, a mezzanotte, praticamente saranno già attivi i server, con tutto già pronto. Mentre ci sarà la gente che farà la fila nei vari negozi per poter giocare subito. Ma se tu lo compri in pre-order, digital delivery, già a mezzanotte sei già pronto per giocare. Certamente, tu a mezzanotte loro aprono i server. Se tu hai se ipoteticamente ci fosse un negoziante che a mezzanotte ha i negozi e tu lo vai lì e lo compri, tu potresti già giocare. E esistono negozianti di questo genere, tipo catene come la Feltrinelli. Mi pare che alla mezzanotte vendano direttamente la copia di vari giochi. Perché, Sono gli spacciatori di videogiochi, sono. ovviamente, in un MMORPG, giocare ovviamente giocare tanto, quindi giocare prima avvantaggia. Sì, Non è però come. non credere che i corrieri abbiano portato il gioco veramente per quell'ora, eh. No, Ma va, il no, gioco ce il l'hanno gioco già ce l'hanno già da una tutti. settimana. Semplicemente la Blizzard dà l'ordine di non vendere. Però Allora, c'è ci sono addirittura certi negozianti, che magari negozianti di fiducia, che ufficiosamente danno la copia. Ovviamente, teoricamente non possono darti la copia, però non lo scoprirebbe nessuno. Se adesso io avessi qui la mia copia di Mist of Pandaria, tanto non ci potrei comunque giocare, perché comunque dovrei Esatto, aspettare i quindi server. allora è solo Praticamente tu. LifeX che annuncia, dà una data di uscita e poi il gioco esce 2 settimane Ma dopo. è perché allora i giochi come questi qui funzionano così: c'è un server con un database dove si basa tutte le cose che tu vedi. Ovviamente c'è un lato server, manda l'ordine al tuo client di far vedere tale cosa. Il client è già pronto in realtà, devono solo sistemare i server in modo che funzioni tutto bene, che non ci siano bug di sorta. Quindi alla fine il CD con la copia masterizzata c'è già, come dire. Ovviamente non te la posso andare, che la Blizzard non vuole che uno adesso vada in giro con la copia di Mist of Pandaria che non è ancora uscito. In Dimmi. alternativa si potrebbe uccidere il corriere con una In quest e alternativa, mettendo su un gruppetto di guerrieri. un esempio, se tu la compri in Digital Delivery dovresti già averla, già la puoi già scaricare in realtà. Tanto Però tanto non, i server non sono non puoi predisposti a giocare, giocare. infatti. Non serve a niente, cioè serve giusto perché così ce l'hai subito, perché sai, ha un peso come A gioco, mezzanotte cioè è già l'hai subito. installata e sei già pronta a cliccare. Esatto, ma anche dire che so, ma è che se non gioco, voglio giocare subito, il giorno dopo, se mi dovessi scaricare 20 giga così di botto, dovrei aspettare veramente tanto, cioè. Invece di averla Sì, già anche perché pronta. ha un peso sto gioco, cioè Ha non penso 23 che occupi giga. 20 mega, cioè 20 giga ce li ha, infatti. Anche perché c'è tutto, per noi italiani c'è anche tutto il comparto audio che è da scaricare. Esatto, cioè, no, vabbè, il comparto audio e localizzazione peserà 300 mega, non è tantissimo. Io, ad esempio, ancora lo gioco in inglese, a dire la verità, perché sinceramente i nomi in italiano non è fatta male, la localizzazione è molto fatta bene, solo che quando sei abituato a sentire i nomi, sentire le cose in un certo modo, siccome è una localizzazione fatta abbastanza completa, persino i nomi, i cognomi propri di certi personaggi sono addirittura tradotti. Quindi potresti essere un po' spaesato. Facci due esempi. Allora, esiste un raid che si chiama Blackwing Descent. In italiano si chiama I sotterranei di Ala Nera. Tu devi capire che se a me mi viene a dire andiamo ai sotterranei di Ala Nera, io ti dico, ma che cosa stai dicendo? Cioè, Però è bello, cos'è? fa tanto anni 80. Però vedi, non è tradotto male, come dire, perché si chiama Blackwing Descent e la traduzione è quella, Blackwing come lo vuoi tradurre in italiano. Eh sì, E però poi magari potevano evitare queste cose. nomi propri li avrei lasciati almeno. Però vabbè, non è fatta male, infatti l'ho provata in beta e mi è piaciuta abbastanza. Più che altro alcune cose, tipo i troll hanno un accento napoletano. E qualcuno l'ha Quando vista un po' razzista. sì, e soprattutto i napoletani stessi Ah, che. no, gli altri. Ahoi. No, vabbè, è che gli altri ridono perché sentono i napoletani si offendono, giustamente. No, ma sono Vabbè. anche i napoletani che l'hanno presa bene alla Ma fine, sì, dai. guarda, sono simpaticissimi quei troll. Ma infatti, cioè, sono. Poi A vabbè, parte l'accento, la parlata, poi alla fine il napoletano è tutta un'altra cosa. che c'è un gioco alla fine, non è che ti devi anche prendere male Punto. sì, non per facciamo queste come i cose. tedeschi che censurano Wolfenstein perché loro sono i cattivi. Cioè. Anche infatti. Comunque, quest'ultima espansione, al contrario dell'ultima appena uscita, avrà un continente nuovo. Avrà un'ambientazione orientale, diciamo. Infatti, sia la musica che proprio l'ambientazione in sé, visto che la razza principale sono i Pandaren, quindi la terra si chiama Pandaria, quindi. Molta fantasia. Esatto. Sarà una nuova classe giocabile che sarà il Monaco, fattibile da tutte le razze tranne il Goblin e l'Worgen. La nuova razza dei Pandaren, come ho già detto, che ovviamente saranno, come dire, stereotipo, il Pandaren Monk sarà lo stereotipo principale, diciamo, giustamente. 5 livelli in più, giustamente. Ogni espansione aumentano i livelli. Vabbè, quello è abbastanza relativo. Il gioco in sé, te lo gusti a livello massimo, giustamente. Vabbè, Poi perché non conoscevo, vabbè. una cosa di cui hai parlato, che è stata criticata a detta di molti, è l'aggiunta della lotta dei Pokémon, se vogliamo chiamarla così. Sì, hanno aggiunto una nuova cosa, cioè possibilità di far combattere i companion, che sono quei pet, diciamo, che tu prendi per estetica, che tu mostri così in giro, potranno lottare, avranno abilità e ci sarà un combattimento a turni stile Pokémon. E li catturerai tirando un baule, se non ricordo No, male. una cassa di legno. E potranno scappare, tu tiri la cassa e fra tipo quando la Pokéball Eh sì, ci rimane. Molto, molto ispirato, secondo me. Sì, una grande citazione. Sì. No, ma quel gioco che diciamo, World of Warcraft è famoso per le citazioni ad altri giochi, ad altre cose, tipo. Ci sono alcuni achievement, cioè le imprese che, non so, Hallowed Be the Name, che è la canzone di Iron Maiden. Sì. The Cake is not a lie, che Ah, c'è anche è due a Dual barrel roll, vero? Barrel Roll, che è un achievement di un raid. Esatto. Proprio quello. Com'è che ci faceva due a barrel roll? Praticamente c'è un raid dove c'è praticamente questo uccello di fuoco. Che ovviamente fa delle varie cose, tipo fa comparire dei cespugli di fuoco che girano, fa comparire dei tornadi che devi schivare, così. Ovviamente, questa c'è mentre si tratta di schivare tutto, ovviamente è famoso più per i tornadi, diciamo. E la cosa è che ovviamente per ammazzare questo, diciamo, uccello di fuoco, tre persone devono salire, volare con un'abilità che prendi durante il combattimento, e praticamente devi seguire il boss e prendere dei cerchi di fuoco che ti danno È delle abilità. barrel roll, infatti la schivata laterale di Star Fox, dei Esatto. giochi Star Fox. E poi ce ne sono infinite, che magari non le ho neanche viste perché sono davvero veramente tante. Una domanda, Marco. Sì. No. Te sei un giocatore di World of Warcraft per caso? Ok, allora ne abbiamo solo uno di giocatori di World of Warcraft. Ah no, infatti ecco perché stavo in silenzio, nel senso stavo ascoltando la. Ah, ma anche noi, solo Riccardo è il nostro esperto. Esperto, poi io ne so quanto gioco, io ci gioco. Io sono stato per anni intossicato con Warcraft 3 Battle.net e non ne voglio più sapere di giochi online. No, ma tanto lo possiamo dire che tu sei un hater, sei uno di quelli che. Perché mi danno soddisfazione solo per quello. Ecco, Una copia di Frozen Throne. non l'ho Sì, tagliata. invece, è tagliata A a metà. forza di metterla e toglierla dal lettore, CD si è spaccata a metà. È colpa delle custodie che avevano, che erano terribili. È Vabbè. colpa delle custodie. Fortunatamente, un nostro amico mi ha venduto la sua a 3 euro. Ah Ma beh, penso che i giochi giusto. dovrebbero farli ancora in cartuccio. Ha una CD che in più, beh. Ma le cartucce, se vogliamo dirla tutta, sono anche più sconvenienti perché la polvere si intasa meglio. Ma basta soffiare, Ma soffiando si rovinano eh? E le comunque. puoi usare come fermaporte. E in Anche. più le cartucce combattono la pirateria. Ah, beh, vale te rippare le cartucce. Ma in qualche modo si farà, le ROM ci sono in internet, Sì, in qualche infatti. Però è modo esiste. molto più complicato perché io non so, mi dai un qualsiasi videogioco, così lo metto sul lettore CD, fa le varie protezioni, sblocco le protezioni ed è fatta attraverso i PC. Le cartucce devo trovare un adattatore che mi riesca a far funzionare, a fare il dump, e poi da quel dump devo riuscire a ricavarci un qualcosa di eseguibile. Quindi non è una cosa molto più complicata. Non è una cosa fattibile da tutti. Su Mist of Pandaria hai qualcos'altro da dire? Niente, che costerà 35 euro, giustamente. Butta un po' di prezzi. Se uno vuole diventare panda, quanto deve pagare? No, allora, la classe, cioè il panda lo può fare, fa un nuovo personaggio, se lo fa. Sì, da Se per zero, caso però. avesse un personaggio a livello 85-90, quello che è, e lo vuole trasformare in un'altra razza, come tutte le razze, sarà disponibile anche il panda e costerà la bestia di, mi pare, 20 euro o 25 euro, non mi ricordo. Comunque è un prezzo abbastanza osceno, diciamo, da buttare via così. Questo era Mambo Jumbo che era in disaccordo. Mambo Jumbo da Banjo Kazooie. Una cosa che io non vi consiglio di fare, io non lo farò mai perché sinceramente sono soldi abbastanza buttati. Già pago 13 euro al mese, mi bastano quei. Infatti ti stavo per chiedere quanto costava al mese World of Questi 13 Warcraft. euro al 13 euro al mese. mese. A meno che non vuoi fare cose abbastanza da passoide, tipo pagare 6 mesi in un colpo, e allora ti fanno lo No, sconto. sì, È un'avventura sicuro. grafica al mese quasi. Però sinceramente io preferisco pagare al mese perché capita molto spesso che per vari motivi non ho tempo per giocare, cavolo il mio abbonamento e poi ricomincio quando mi torna la voglia o il tempo. Però per questi i giocatori che hanno giochi ad abbonamento c'è anche l'alternativa, ovvero Guild Wars 2. Sì, è un gioco che proverò abbastanza presto perché mi interessa abbastanza. È un gioco, come dire, è sempre lo stesso genere di World of Warcraft, però molto, diciamo, differente come stile di gioco. A parte che è incentrato più sul PvP, cioè player contro player. In contrario di World of Warcraft, invece è molto più incentrato sul combattimento contro computer, diciamo. PvE. PvE. Vabbè, Che vuol ma dire PvE? Player versus environment, contro ambiente. Ah, ok. No, perché PvP avevo capito, però la E non riuscivo a capire che Ma cos'era. sinceramente environment ambiente non è che anche a me mi ispiri tantissimo, avrebbero fatto meglio fare qualcosa contro computer, si capiva un pochino meglio. Infatti. E però Ma sai, chiamarlo PvC non era il massimo. sì. Mi fa un po' boh, non so cosa dire di questa sigla, però vabbè. Una sigla. Sì. Una sigla un po' strana. Quale sigla? PvC, non so cosa ti Ah, potrebbe no, citare. c'è la canzone. Ah, io pensavo Ciao. parlassi della canzone sottofondo. Oh, vabbè. E comunque dicevi, Guild Wars è sempre un MMORPG, Massive Online RPG, o come si dice, però Diciamo senza abbonamento MMORPG. mensile. Senza Quindi una abbonamento volta che l'hai mensile. comprato, ci giochi quanto ti pare. Esattamente. Tu ci puoi giocare, non ti devi fare rimorsi se per un certo periodo non ci puoi giocare. Perché comunque, a parte il fatto che è un abbonamento, non ha neanche ha un sistema diverso di gioco. Non è. Mentre su World of Warcraft è un gioco basato anche sull'equipaggiamento, cioè su quanto sei equipaggiato, se rimani indietro con l'equipaggiamento, fai fatica a fare certe cose così. Guild Wars invece è un gioco in cui l'equipaggiamento è solo una cosa estetica. Quindi tu puoi permetterti di giocare poco, ma essere comunque competitivo. Mentre World of Warcraft, pur non essendo un gioco, come dire, stile coreano, cioè dove devi giocare tantissimo per avere risultati, comunque un Ok, minimo di tempo glielo devi dedicare. hai detto Giusto? coreano, quindi adesso sei obbligato a raccontare una leggenda sui coreani fantasma che giocano a World No, dai, non è una leggenda fantasma, semplicemente i giochi tipo coreano. Sono quei giochi dove è tutto incentrato sul cosiddetto farming e grinding. Sono termini che si intendono il eseguire una cosa ripetutamente per ottenere un risultato. of Fortress. Quindi di più tempo ci perdi sul gioco, più tempo più vai avanti, diciamo, nel gioco. Mentre Allora mi World of tocca Warcraft raccontarla a me. hai un limite. Allora mi costringe a raccontare a me la leggenda. Vai, Sì, dai, È la voglio solita, sentire. eh. Non mi ricordo quanti anni sono passati. Andavo alle superiori, è sempre così che inizio. Andavo alle superiori e in radio, non mi ricordo neanche quale radio, diedero la notizia che non c'è niente da ridere, però fa ridere. Un coreano era morto giocando a Soul Calibur 2 per 3 giorni. L'hanno trovato 3 giorni dopo, cioè 3 giorni che non si presentava al lavoro. Sono andati a casa sua e era morto davanti a Soul Calibur 2. Come fa una persona a giocare tanto a un picchiaduro da morire? Non si sa. Cioè, Non si sa. a un picchiaduro. Vabbè, scusa, se vuoi finirlo con tutti. Sì, vabbè, ma di fila. Boh, io sinceramente, se, quando gioco, qualunque gioco devi giocare, se passa più di 2 ore che sto giocando, a un certo punto proprio devo fare qualcos'altro. Magari sto anche attaccato al computer, però devo fare qualcos'altro, cambiare gioco, perché Poi comunque un MMORPG lì, come si chiamano, danno Sì. dipendenza, si sa. Invece un Sì. picchiaduro. Non, Non ha come male 3 fa? giorni, Boh, giocare. sì, sinceramente non lo concepisco una cosa così, però. Boh. Sono persone Vabbè. diverse. Detta la leggenda, Pandaria non possiamo dare un voto. No, tu l'hai provato. provato la beta, sinceramente Per non saprei quello come dare un voto a che hai un'espansione di visto gioco. finora, il rapporto alle altre espansioni, cioè ovviamente col senno di poi che dalla beta alla stabile ci saranno delle differenze, no? Sì. E quanto gli daresti sulla fiducia? Boh, così sulla fiducia gli darei 3 banane e mezzo. Cioè. Così sulla fiducia solo perché ho provato una beta. Come fai? Ovviamente questo è un voto Questo molto. qua. Per il fatto che ho semplicemente provato una beta, dovrei provare il gioco. Perché il gioco ovviamente cambia, a prescindere da che è una beta o meno. Con patch vari contenuti in gioco che metteranno avanti potrebbe cambiare. Io Cataclysm quando l'ho vista in anteprima gli avrei dato 4 banane, 4 banane e mezzo, quasi 5. Poi quando siamo arrivati alla fine faccio fatica ad arrivare a 3 perché l'ultima patch ma Ah, veramente. beh, è un anno che dai calci nel culo a Deathwing. No, ma non solo per quello, proprio come è stata fatta il raid e il bilanciamento delle classi, perché sai che è un gioco con tanti classi. Scoccia un po' se qualcuno con una classe diversa sia superiore a te semplicemente perché ha una classe diversa e non Sì, so. sì. Anche se sinceramente io gioco una classe che è in certi versi superiore ad altre, quindi non è che mi lamento perché ho la classe inferiore, anzi, io ho una delle classi più forti alla fine. Però non. Paladino, diciamolo. Paladino. Quindi non è che sto dicendo che la mia classe è inferiore, semplicemente proprio sapere che il paladino è superiore ad altre classi non è bella sta cosa, come dire. È più bello sapere che io sono più bravo, quindi sono più forte di te perché sono più bravo e non perché. Perché ho una classe da bimbo minchia, come dice molta gente. Come Esatto. dicono che è il Cavaliere della Morte, io ho sempre sentito dire che è una classe da bimbo minchia. Sì, quello è normale. Ma in realtà comunque. Vedi, Vabbè. uno gioca la classe che gli piace, anche esteticamente, Cioè, come stile di gioco. tu non inizi pensando questo è più forte. Cioè, io giocherei l'Hunter se dovessi giocare, se mi pagassero l'abbonamento e io non dovessi pagare nulla, giocherei l'Hunter perché l'Hunter c'ha troll, perché il troll è bellissimo e l'Hunter si porta dietro i tirannosauride. Esatto. Ecco, il motivo è quello. Poi c'è gente che ha, nel corso della sua, diciamo, Vita. una sua vita di gioco. Cambia anche classe a seconda dei cambiamenti di quel genere, perché a volte le classi vengono proprio stravolte. Poi vabbè. Buono, io Ok. direi. Ho Quindi un detto po' abbastanza. d'aria se ne esce con un 3,5 sulla fiducia. Cioè, Esatto, che però va ad aumentare, sono fiducioso. si spera vada ad aumentare, non a Esatto. calare. Non a calare. Perché se cala, hanno un giocatore in meno. Sì, ok. Oddio. È La fine della canzone di Runaway. Non è la fine della canzone di Runaway. C'è Mario Ape. Vabbè. Ok. Buon, ora tocca a voi, tocca a te, immagino. Faccio io, va. Te ti lascio per ultimo con Demon Crest. Ah sì, certo, gli argomenti più importanti. L'altra volta eri Anni primo. 80 e 90. Hardcore Ah, gamer. Dai, vai, parla te di colpo di vabbè. patata. L'ultima volta eri te primo. Allora, vado a prendere la mia recensione sotto. Io ho detto di cosa volevo parlare. No. Bene, allora lo scelgo adesso. Se trovo la mia recensione, così almeno mi aiuto. Non la trovo. Ah, comunque pensavo di parlare del survival horror della PlayStation 2, Rule of Roses. Se lo pronuncio male, mi dispiace, ma io e l'inglese non andiamo d'accordo. Rule of Appunto. Roses, eccolo qua, Rose, non Roses, dicevo al plurale. Allora, Rule of Roses, non mi sono scritto di che anno è, comunque dovrebbe essere, non lo vado a vedere, intorno al 2005, credo. 2006. 2006. 2006. Perfetto. Sì, ho visto la Allora, pagina di Wikipedia. aiutami con i dati tecnici. Salvaci tu. No, no, Mobi è meglio. Wikipedia ha dei moderatori ignoranti. Allora, Rule of Roses, innanzitutto, è uno dei giochi dell'ultima generazione della PlayStation 2, prima che la PlayStation 2 tirasse le cuoia, anche se in realtà ha continuato a far uscire i giochi ciclici tipo i FIFA, i PES, robe varie. I Alla giochi fine non mancano più. veri sono morti intorno al 2006, mi sembra, gli ultimi. Ah, dopo un annetto che è uscita la PlayStation 3, hanno smesso di fare proprio Sì, tutti i diciamo che hanno giochi. finito i progetti in corso, perché come dicevo ieri, se tu fai un progetto per una console, ma poi lo porti all'ultimo momento sull'altra, come C'è un dicevo per problema Ephemeral tecnico di un Fantasia, processore e diciamo. ottimizzazione. Come dicevo per Ephemeral Fantasia, o anche nel caso della Nintendo per Eternal Darkness, che doveva essere dal 64 poi è passato al GameCube, si vede pesantemente il problema. Ogni riferimento a Diablo 3 che ha messo 12 anni ad uscire è Vabbè, puramente Duke Nukem casuale. Forever, allora. Vabbè, ma quello sai che il Forever nel nome, quindi anche Sì, già Forever nel attesa. 99 c'era Forever. L'attesa è stata. Forever. Però è stata premiata, dicono. Io ci ho giocato. L'ho lasciato a metà. Ah, E va bene. ho detto tutto. Ok, io di Duke Nukem ho nel curriculum solo il 3D, quindi non posso. Aspetta che abbasso qua. E quindi va, torniamo a Rule of Rose, che stiamo prendendo un sacco di tempo, stiamo Esatto. prendendo. Allora, il Rule of Rose è famoso in Italia perché dei quotidiani, che non mi ricordo quali sono, fecero una polemica della Madonna, perché nel trailer si vedeva delle bambine che seppellivano un adolescente, che nella trama del gioco ti dicono che anche lei è minorenne, quindi delle bambine seppellivano un'altra minorenne viva. E quindi ci fecero tutto lo scandalo sopra, oddio, i videogiochi così cos'ha. Comunque da noi è uscito con i 16, con la censura ai Dagli minori 16. di 16 anni, che comunque è alta. Sì, che però se pensi GTA sarà censura di 18, ma lo giocano anche bambini di 10 Cioè, anni. sì, io ho visto più bambini giocare a GTA, direi. Sì. È vero, anch'io. È il gioco preferito dei bambini, ti dà tutto. Sì, se ti vedono giocare a GTA ti dicono tutta la trama del Cioè, mondo. io gioco a Kirby Adventure, i bambini giocano a GTA più di me. E Vabbè. fanno i tornei di Call of Duty. Sì, Ah, vabbè. vabbè. L'unico gioco che posso Comunque. giocare anch'io, mi dici? Ah, perfetto. E niente, ci fu sto scandalone che altro non fece che aumentare la pubblicità del gioco. Infatti vendette discretamente. Allora, la storia è ambientata nella vecchia Inghilterra degli anni 30. La protagonista è Jennifer, ha appena perso i genitori ed è stata affidata a un orfanotrofio di campagna. E il gioco inizia durante il viaggio in autobus, in cui lei sta andando all'orfanotrofio. È tipo notte e nell'autobus c'è solo lei e l'autista che non si vede nemmeno, quindi c'è solo lei a dirla tutta. E mentre lei si sta appisolando, gli passa davanti un bambino che gli lascia un libro di favole molto malandato. E Jennifer insegue, scende dall'autobus e insegue il bambino e arriva all'orfanotrofio che. È una struttura vecchia e malandata e oscura, non c'è nemmeno una luce, mi sembra, persa nel bosco. E dopo un po' di girovagamenti, se non so se esiste la parola, ma la usiamo lo stesso, nell'orfanotrofio, non incontra nessuno. E a un certo punto succede la scena famosa del trailer, quella in cui lei, da delle figure che sembrano bambine, viene sepolta viva. Quando si risveglia da questa sepoltura si ritrova in uno spazio totalmente diverso e veramente, veramente una buona idea lo spazio in cui si ritrova, perché il gioco in sé non è ambientato nell'orfanotrofio, è ambientato in una ambientazione che non voglio dire perché è veramente un'idea, una bella idea Spoiler. che sorprende. Cos'hai detto, Riccardo? Spoiler. No, non lo dico, infatti. E Cattivo. l'ambientazione è veramente bella. Il problema è che i capitoli del gioco, che sono tanti, la ripropongono fino allo sfinimento, senza aggiungere veramente tanto. Comunque il gioco ha un'ottima trama, che non, purtroppo non posso dire. Brown. Comunque diciamo che Jennifer, quando si ritrova in questo posto, verrà a conoscenza dell'esistenza di un club degli aristocratici che non si sa, capisce bene come funziona subito. Comunque, questo club degli aristocratici ha uno schema piramidale in cui lei, Jennifer, è in fondo della schiava e lei dovrà eseguire i compiti che gli danno, che gli dà questo club. Solo che i compiti la porteranno a girovagare per l'ambientazione di cui non possiamo dire, di cui non possiamo parlare. E che è molto gotica, ottocentesca, e e costellata di creature abbastanza inquietanti. Anche la colonna sonora è molto azzeccata. E la trama si evolverà molto, arrivando a un finale molto triste. Quindi, che non diciamo. Che non si dice. No, cioè, praticamente ovviamente. A livello di trama non si può dire niente. Comunque la trama è azzeccata, il gioco per la trama vale tanto. Il problema è che la trama ingrana lentissimo, cioè dopo 5 ore di gioco la trama ingrana. 5 ore terrificanti, perché arriviamo al punto dolente del gioco, il gameplay. Il sistema di combattimento è legnoso e imperfetto, da fare invidia a Resident Evil 1 della PlayStation 1. Sì. Cioè, almeno Resident Evil aveva l'autopuntamento. Qui invece tu ti ritrovi a metterti in posizione di battaglia, no? Tenendo premuto R1, mi sembra. Quindi ti metti accasciato con l'arma. E poi quando inizi a smazzare, smazzi a cavolo. Cioè devi anche prendere la mira, insomma. No, con una levita analogica, immagino. No, vi piacerebbe. In realtà i nemici hanno un sistema di collisione che non ha un verso. A volte vedi l'arma che penetra nella avversaria, ma non l'hai colpito. E a volte il nemico non ti prende, ma ti prende. Ah, quindi lo vedi che si muove, pensi di averlo schivato, invece t'ha preso. Invece tu fai... Ah! Sì, in realtà con i nemici comuni ce n'è solo uno che dipende dal modello 3D. Quelli che hanno il modello 3D molto grosso fanno così. C'è un solo nemico di quelli normali che fa così. Il boss è più grande della il terza. Primo boss è terrificante. Cioè, tu credi di averlo colpito e non lo colpisci. Lui lo schivi e ti ha colpito. Vabbè. Beh, sono piccoli difetti. Molti, cioè, però considerando che in un survival horror il sistema di combattimento che è tutto all'arma bianca, non ci sono armi da fuoco, è terribile. Eh sì. Più che altro è con le armi contundenti, le armi perforanti funzionano bene. Sono perforanti, a taglio non c'è niente, mi sembra. Le infili a mo' di lancia. Le armi contundenti hanno questo problema. Un altro aspetto fondamentale del gioco è il cane. Come in Hunting Ground, la nostra protagonista Jennifer sarà accompagnata per tutta l'avventura da un cane. In Hunting Ground il cane si chiama Brown. No, Iwi. Qui si chiama Brown. Il cane in Hunting Ground è fondamentale per combattere. Qui invece è fondamentale per andare avanti nel gioco, perché noi troveremo indizi per compiere le missioni che il club degli aristocratici dà a Jennifer, che vanno risolti grazie al fiuto del cane. Quindi equipaggiando un oggetto al cane, lui inizierà a seguire le tracce. L'idea non è malvagia, il problema è che non è abusata, abusatissima. Cioè, tre quarti del gioco siamo noi che seguiamo il cane e picchiamo i nemici che ci saltano addosso mentre seguiamo il cane. Ah, quindi diciamo che potevano svilupparla un po' meglio questo aspetto. Potevano abusarne meno. Anche. È perché l'area da esplorare non è vastissima, quindi hanno sfruttato i percorsi del cane per farla sembrare un po' più lunga. Anche perché ogni capitolo, certo, i mostri comuni che incontriamo nell'area sono diversi. Sì, quindi per cercare di renderlo un po' più longevo, tra virgolette, hanno messo sto cane da seguire, insomma. Sì, che ci fa fare la locazione, la nostra ambientazione, però seguendo percorsi diversi dal capitolo precedente. Ah, ecco. In realtà in ogni capitolo c'è un pezzo di ambientazione in più, però non è che sia questa vastità. E invece la colonna sonora è ottima. Come quella di Obscure, è classica, orchestrale, e riesce benissimo a dare l'ambientazione horror. L'ambientazione horror, sì, e horror ottocentesca. Cioè, c'è quella dark. Quel dandy, no? Non è dark, è salottini inglesi dell'Ottocento. Ah, ok. Poi quando arrivano i mostri, sì, gli archi impazziscono e fanno tan, tan, tan. Beh. Sento in sottofondo la canzone di Monkey Island, o sbaglio? E ci sta infatti. Sì, è proprio un'ambientazione horror. Allora, tiriamo le somme. Il problema fondamentale del gioco è che non ci sono enigmi in realtà. Ci sono pochissimi. E Survivor Horror, come ci ha abituato Silent Hill e Resident Evil, tirano avanti per gli enigmi. Invece in Rule of Rose, a parte seguire il cane, gli enigmi sono veramente, veramente pochi. Quindi è una cosa negativa. Purtroppo sì, perché cioè, invece che risolvere un enigma, ci troviamo a seguire un cane per dei corridoi per Beh. molte ore, perché il gioco è 15 ore tipo dura, però molte Snervante. sono di perdite di Non tempo. sono passate bene, diciamo, Sì, sono passate a queste seguire un ore. cane avendo paura che qualcuno ti salti addosso. Però, visto che la storia merita, il gioco direi che è da giocare. Il problema è che bisogna arrivare alla sesta ora di gioco, diciamo, le prime 5 sono veramente terribili. E in più bisogna scendere a patti col sistema di combattimento. E poi abituarsi a prendere più chiaro largamente le cose, immagino. Ah, sì, e in più. Sulla falsa riga di Silent Hill, anche il gioco ha due finali, anche questo gioco. Il finale bad e il finale good, se vogliamo chiamarli come Silent Hill. Peccato che il finale bad sia sbrigativo da far paura, cioè proprio è un contentino, se tu non hai capito come ottenere il good ti danno un contentino. Il good, senza soluzione, cioè, non so come faccia una persona ad arrivarci, non è così semplice. La cosa Rimane bad, positiva. immagino sia. La cosa Vabbè, positiva è che se hai un salvataggio prima dell'ultimo boss, puoi farli tutti e due, dai, almeno. sì. Non è come Silent Hill che alcuni finali comportano che tu ti sia comportato in un certo modo per tutto il gioco. Tipo Sì, quello UFO. l'UFO, Quello oppure l'easter egg, diciamo. nel 2 c'è un finale che per averlo devi comportarti bene con Maria tutto il gioco. Ah. O un altro che devi stare ferito tutto il gioco, più No, possibile. devi curarti raramente, sì, stare sempre con pochissima vita. Quindi se non l'hai ottenuto ti tocca rifare tutto. Eh sì. Troppo Comunque Silent Hill 2 non è lungo, quindi. permettere. Quindi non saprei. Rule of Rose naviga sulle 2-3 banane, dai, diamogli 2,5. Quindi non è un gran gioco secondo te, quindi. Lo consiglieresti? La trama è ottima per un survival horror. Il problema è il gameplay, che comporta una pazienza della Madonna. Che Quindi io mi potrei, diciamo, incazzare molto facilmente. diciamo che è per gli hardcore gamer degli survival horror. Uno che i survival horror non è che ci giochi spesso, questo qui fa perdere la pazienza subito. È come ieri ho fatto la stessa cosa per gli JRPG, Ephemeral Fantasia. Per un hardcore gamer del JRPG, dopo 5 ore diventa la manna dal cielo. Per uno che è abituato a giocare a Final Fantasy, la prima ora ti stacchi perché non ce la puoi fare. Purtroppo io recensisco solo giochi per i palati fini, ma che devi avere una pazienza che mai. Ok. Chiudiamo con Rule of Rose. Che è solo per PS2, quindi necessita il recupero della console stessa. Una cosa che non ho detto: Rule of Rose non è doppiato in italiano, solo sottotitoli. Anzi, non mi ricordo, forse non ha neanche Sì, sottotitoli ce li ha in italiano. Sì, ce li ha, sottotitoli. ce li ha. Ah, una cosa interessante del gioco: l'inventario. L'inventario è veramente, veramente bello. È una lavagna in cui ci sono i disegni stilizzati degli oggetti. Ah, quindi abbastanza artistica la cosa. Sì, perché il gioco è concentrato sulle favole, no? Favole horror, favole nere. Ah. E quindi ogni volta che intraprendi la missione ti viene dato il libro della favola della missione, che è molto horror, sono fogli strappati e sanguinanti. E le illustrazioni sono molto belle e l'inventario ha tema con questo. Infatti gli oggetti richiamano i disegni infantili. L'unico problema dell'inventario è che il font usato, simulando la lavagna, non è leggibilissimo. Quindi diciamo che Rule of Rose ha più problemi che punti buoni, cioè. solo la trama, giusto? La trama, l'estetica, la grafica, sì, tutto diciamo un po'. L'idea, ecco. Sì, l'idea generale è ottima per un survival horror. La grafica, no, la grafica, il gameplay e il sistema di combattimento, purtroppo, sono una pecca della Madonna. E poi, quando hai finito il gioco non ti viene neanche voglia di rifinirlo, anche se ci sono dei, come in tutti i survival horror, ci sono degli extra. Sì, che poi da chi è che l'hai detto, da chi è prodotto? Prodotto da noi la fai, non lo so pronunciare, la 505 Game Street l'ha distribuito, sì. Che ha distribuito un altro pessimo gioco in quell'anno che è, come si chiama quello coreano, quella JRPG coreano, Magna Carta. Quelli veramente sono soldi buttati via comunque. Ma quel gioco che ti ho visto giocare, che volevi per forza finire, ma sì, non riuscivi. Era una questione di principio. 55 ore di JRPG, non mi sono divertito un'ora. Passa. Sarebbe finito contro un muro molto presto. Da pubblicato. Sto guardando. Developer Punchline. Non lo riesco a trovare. La Punchline ha fatto solo quello. È un gioco che si chiama Tulip, che ha preso 2.5, che è della PlayStation 2. Deve essere veramente un bel gioco. Ecco, la Punchline ha fatto un survival horror e Tulip, che è un altro survival horror, sicuramente. Dalla copertina è terribile Tulip, però non so che tenere con questo nome, poi. Ma vi consiglio di guardare la copertina di Tulip. Come è scritto? CH-ULIP è un tizio che sta cercando di baciare qualsiasi essere vivente incontri. Ok, allora... Quello che pensavo è quasi reale. Cambiamo tizio con postino giapponese, perché è vestito da postino. Sì, la sto guardando anch'io. Adesso la sto guardando il shot e c'è lui che sta baciando un samurai. No, samurai è un aborigeno, scusa. Ma che gioco è? Ok. Dopo o prima Tulip hanno fatto Rule of Rose? La domanda è questa. Tulip è del... 2006. Ecco, dopo Rule of Rose la Punchline ha fatto Tulip, quindi hanno cambiato totalmente. Ma vabbè, che genere, molto non è stata una bella scelta. Tra Adventure Simulation la segna qualcuno Wikipedia. Lo mette come RPG Tulip. Ok, chiudiamo la parentesi Rule of Rose, che comunque, se vi piacciono i survival horror e avete pazienza, lo consiglio. Dici che a me, che dopo tipo 2 mesi che giocavo a Diablo 3 ho sfasciato un mouse contro il muro, me lo consigli? Beh, te che non hai la PlayStation 2 dovresti procurarti illegalmente il gioco o una PlayStation 2. Illegalmente. La PlayStation 2 ce l'ho, non è quello il problema. Ah, ce l'hai? Allora sì, dovresti procurarti il gioco. Non adesso qui in casa, però me lo posso procurare. Che comunque su eBay con la PlayStation 2 si trovano delle offerte della Madonna, perché una volta volevo comprare 140 euro. Una PlayStation 2 già modificata, perché la mia era ancora vergine, e c'era un'offertona. Questo tizio vendeva PlayStation 2 a 5 euro. Un euro. A 1 euro, e ne aveva in negozio tipo 50, però ti diceva nella descrizione, nel lotto io ve ne mando una a caso, nel lotto ci sono PlayStation 2 funzionanti, non funzionanti, modificate e non modificate, quello che vi arriva, vi arriva. Cioè, batteria. Che vuol dire che... Conveniva comprarne 10 a 1 euro l'uno, esatto. Tutto, e sperare che una andasse e una fosse modificata. Magari ti arrivava Silent Hill, no, volevo dire Alone in the Dark 5. È un po', PlayStation 2. Qui c'è, non so se affida, qui che affidabilità top. Anche un NES te lo fanno a 30 euro. La PlayStation 2 è classica, quella, quindi quella grande, che arriva dalla Germania, perché la descrizione è tedesco, vabbè. Bello, la descrizione mi piace tantissimo, però a 40 euro. 15 euro di spesa di spedizione, quindi con... Ovviamente era italiano questo, perché solo noi italiani possiamo fare questi giri assurdi. Sì, sì, sì. Come... Cos'era? C'era un videogioco cabinato, non mi ricordo che gioco era. O era un flipper? No, era un cabinato. Cioè, è la descrizione rapida della console. Il cabinato costava un centesimo, spesa di spedizione 9.999 euro. Ma io ne vedo un sacco di quelle cose. Cioè, è assurdo. Gente che fa queste cose, sì. E sperano che qualcuno compri. Sì, sì. Stavo cercando un cellulare per un mio amico e c'era prezzo, 2,50 euro, tipo spese di spedizione 66 euro. C'è boia. Onestissimo. Dove arriva? Dall'Australia? Sì, infatti gli strumenti musicali all'estero così normale, ma qui in Italia. So. Ma diciamo che se paghi con PayPal hai anche la possibilità di avere un po' di garanzie con il chargeback, queste cose qui, per riavere i soldi in caso di truffa. Però non conviene rischiare comprare da gente con pochi feedback o con feedback negativi, eccetera. Esatto. Infatti io se dovessi vendere qualcosa non mi comprerebbe nessuno, perché non mi comprerebbe niente nessuno. Io ho zero feedback. Conosco una persona che Il direbbe problema questo. iniziale. Show me your moves. Show your moves. Dai, mostra le tue mosse. Fammi vedere le tue mosse. Allora, chiudiamo la parentesi eBay, va, che sennò qua ce ne sarebbe da dire. Sì. Soprattutto quanto è bello leggere i feedback negativi dei venditori a cui compriamo, perché a volte ci sono delle cose epiche. La gente ha fantasia quando scrive feedback, Sì, proprio. Passiamo a un mitico gioco dell'era Super Nintendo, Demon Crest. Torniamo negli anni del 94. Questo qui è un titolo Capcom. Fammi mettere sulla sigla un Sì, attimo. va bene. È un titolo Capcom che sicuramente vi ricorderà molto Ghost and Ghost, o Ghost and Ghost, o Super Ghost and Ghost, Questo non è Demon Crest. che è il gioco. Che musica hai messo? È Rescue Shot. Oh, non me la apre quella Demon Che è il gioco dove voi userete Crest. Ah. Artù per sconfiggere il signore dei demoni. Ecco, in Demon Crest il protagonista, Firebrand, sarà proprio uno dei demonietti che combattevate in Ghost and Goblins, un demone rosso. Firebrand, lo dice anche il suo nome, è un demone del fuoco. E Demon Crest è il seguito di un vecchio gioco del NES che si chiamava Gargoyle Quest, che era una sorta di RPG platform, Molto oscuro. dove dovevate lavorare per conto del re dei demoni e fare certe missioni. Nel seguito, Demon Crest, Firebrand decide di diventare il signore dei demoni, Eccola. rubando la cresta del paradiso, che è il potere finale, al signore dei draghi. Il problema è che mentre lui sta volando verso il signore dei draghi, viene colpito da un misterioso altro demone, che gli fa perdere tutte le sue creste, che erano i poteri che poteva utilizzare lui, cioè nel senso che si poteva trasformare in altri tipi di demoni. A questo punto Firebrand precipiterà in un cimitero e verrà attaccato da un drago zombie. Dopo essere scappati dalla morte, sconfiggendo il drago zombie e superando il cimitero, Firebrand incontrerà il misterioso demone che l'ha assalito, il quale si chiama Arma ed è un demone del vento, e anche lui vuole diventare il signore dei demoni sconfiggendo il drago divino. Quindi voi con Firebrand dovrete sconfiggere Arma e recuperare tutte le creste che lui cercherà di rubare, che sono sparse per il mondo. Il gioco è mezzo platform RPG perché quando voi entrate in un mondo diventa un platform in tutto per tutto, molto laterale, nel senso che andate dritti e uccidete i boss. I livelli sono molto belli perché hanno di solito delle strade secondarie, quindi potete rifarli per trovare oggetti segreti o altri boss. E il punto di forza del gioco sta anche nel fatto che ha ben tre finali, che vengono, diciamo che i finali si possono ottenere a seconda di quello che avete fatto nel gioco. Se avete completato tutte le cose secondarie, potete combattere il vero boss finale. Se no, ci saranno due boss finali alternativi. Il fattore RPG dopo che avete finito un livello del mondo, perché Firebrand volerà la mappa del mondo, voi potete muoverlo tipo aeronavi di Final Sì, Fantasy il 4 o famoso 6 Mod 7 della Squaresoft. che schiaccia tutto. Il Mod 7 praticamente è un metodo usato nei giochi 2D per simulare il 3D del mondo, dove al terreno viene data una forma sferica in modo da simulare il pianeta Terra, e alle cose tipo alberi e case che si alzano su vengono alzate su molto forzatamente. Diciamo, il 2D riesce a simulare la sfericità del pianeta. Quindi l'aspetto RPG si vede nella mappa del mondo e quando interagite con certi luoghi, nel senso potete andare in delle città abbandonate dove ci saranno vari demoni che vi vendono magie da usare o pozioni curative. Anche queste sono cose particolari, perché se voi non esplorate bene il gioco non potrete né avere né magie né pozioni. perché potete avere un tot di pergamene e di boccette per pozioni che sono nascoste nei mondi. Ricorda molto le Zelda Link to the Past, che puoi avere un tot di boccette della vita, tutte quelle cose lì. Se il limite qui è di 5 sia per le pergamene che per le pozioni. Inoltre nel gioco sono nascosti 5 amuleti segreti che vi daranno dei bonus particolari che il gioco non vi dice, però hanno qualcosa di particolare, tipo la corona, mi ricordo. L'altro aspetto molto bello è che ogni boss ha delle debolezze diverse, perché Fireblade durante la sua avventura riotterrà le sue vecchie creste, tipo la cresta del vento che lo trasforma in un demone del vento che può fluttuare meglio nell'aria. Certi boss sono più deboli al vento, magari, e più forti contro la terra, Poi immuni addirittura. quindi dovete sviluppare bene tutti i tipi di cresta a seconda del boss. Quindi bisogna combatterli parecchie volte per capire bene qual è la loro debolezza. E a volte bisogna rifare vecchi mondi per trovare la cresta giusta per battere i boss che non riuscite a battere. Purtroppo questo gioco non è molto famoso, infatti è una vera pecca È uscito perché. tardi. Sì, però è piaciuto molto a quelli che l'hanno giocato. È uscito tardi e non so neanche se è uscito in Europa, ti dirò. Io la versione che ho giocato era in inglese, e se vai a cercare su eBay trovi solo in inglese o in giapponese, mi pare, a 50 euro, con Perché cartuccia. mi sa che non è Beh, uscito in con Europa. cartuccia custodia, con cartuccia sarà base. uscito soltanto in Purtroppo la Nintendo, America. nel NES e lo SNES, avevano dei Soltanto in Giappone. problemi di distribuzione di giochi. Il NES non ne parliamo, che avevano diviso l'Europa tra due distributori. Eh sì. E Sì. beh, in Giappone non c'era il Famicom. Sì. Col NES. Cioè, Sì, è della. che praticamente l'Europa se l'erano divisa. La Mattel aveva parte dell'Europa e l'Australia e il Canada. E noi eravamo sotto la Mattel, eravamo il PAL 2, mi sembra, e il PAL 1 aveva altri stati. Quindi se noi compravamo un gioco in Germania non andava in quello italiano. Sono Sì, le trovate era lì, già che in Region c'è un blocco, PSC, sono PAL 1 e veramente PAL 2. pochi. Sì, ci vogliono gli adattatori apposta addirittura per giocare a certi E giochi. invece col Super Nintendo molti giochi non arrivavano perché non avrebbero venduto, tipo in America di Final Fantasy ne sono usciti la metà per il Super Nintendo. Infatti Final Fantasy 6 in America si chiama Final Fantasy 3 perché ero Sì, rimasto. questa la sapevo, sì. Cosa che crea un casino della Madonna, perché se tu Sì. guardi la copertina del gioco e anche il menu del gioco c'è scritto Final Fantasy 3. Ma non è Final Fantasy È il 3, è 6. Il 6. Ma vabbè. vero 3 non è un granché, il 6 è un No, il capolavoro. vero 3 non l'abbiamo mai giocato, non se ne può parlare. Però tutti gli altri li ho finiti, sono ben Sì, contento di vabbè, parlarne. parliamo di Demon Crest. Torniamo a Demon Crest. Qui l'unica critica negativa che danno a Demon Crest è che è troppo difficile. No, no, no, no, no, E qui. aspetta, è troppo difficile sia i livelli che frustrante capire come andare avanti, perché se tu non hai certe creste, certi livelli non li puoi fare. No, no, qui adesso mi metti in posizione di difenderlo Ma perché non l'ho detto questo io, l'ho è un letto. fattore ridicolo. Allora, Demon Crest, semplicemente la mappa del mondo funziona così: i nuovi mondi vengono sbloccati quando tu hai battuto un certo boss. Quindi alcune creste sono obbligatorie da prendere anche se sono nascoste e sono facilissime da trovare. Un esempio, nel primo mondo, il cimitero, quando voi avrete già ottenuto la cresta della terra, che è obbligatoria, vi diranno che la cresta della terra può dare delle spallate talmente forti da spostare i massi. In un punto di questo livello c'è un masso, voi vedete dietro al masso il contorno di una porta. Cosa bisognerà fare secondo voi? Beh, non c'è molto da capire. Beh, in quel periodo Scommetto che dovrò panicare e andare a guardare la gli soluzione su action internet. platform in quel periodo erano tutti così, anche Super Metroid, anche Mega Man, dalle trasformazioni che ha il tuo personaggio spacchi, cioè apri nuove strade. No, Mega Man diciamo che era obbligatorio prendere tutte le trasformazioni. Ok, Mega Man però X. in certi livelli ti fanno prendere cose in più. E anche lì comunque c'è il fattore di Demon Crest, che alcuni boss sono deboli a certi elementi. Infatti Sì. quella è una cosa che apprezzo molto. Parlando di platform, andate sul sito miciosegonads.intervista.org Org, e scaricate Optimus Prime. scaricate Oximus Prime, un bellissimo platform vecchio stile. E poi c'è da dire comunque su Demon Vai Crest, giusto per. beh, tutti i giochi dello SNES, tutti i platform dello SNES avevano quella difficoltà. Io non lo trovo più difficile degli altri. L'ho finito bene come ho finito Donkey Kong Country 1. È venuto voglia di giocare a Super Metroid. Va bene. Mi è venuta voglia di giocare al platform là, quello là. In Games. Un problema purtroppo di Demon Crest è che esiste solo la versione SNES. Non si sa per quale motivo nella Virtual Console del Wii questo qui non è uno dei giochi acquistabili, perché probabilmente quella Nintendo non capiscono niente. No, infatti. Preferiscono dare disponibili giochi assurdi che nessuno compra piuttosto che questi. Questo è veramente un gioco meraviglioso. Magari hanno paura. Ha 20 pallini della vita. Magari paura che non faccia successo, però. Beh, c'è anche da dire che comunque questo gioco adesso è, come si dice, Abandonware. Quindi è legale giocarci sull'emulatore. Sono 20 anni che nessuno lo più di 20 anni che nessuno lo ridistribuisce. Direi che Abandonware benissimo. Si dovrebbero vergognare. Sembra giusto. Insomma, se avete 50 euro da spendere per comprare su eBay la cartuzza, sì, o la custodia senza cartuzza, potete farlo, oppure usate la vostra Wii Magic. Vabbè, non se la facciamo come ieri, i soliti canoni di 250 euro. Era la banconota a 250. Però se avete una Wii Magica si potete giocare comunque. Perché questi giochi dello SNES li vende solo un venditore su eBay che accetta solo e esclusivamente banconote da 250 euro. Sempre giusto. Perché chi non ha banconota di 250 euro? Banane, Demon, diamo se non hai niente da aggiungere. Ma da aggiungere, boh, mi sono piaciuti molti aspetti di alcuni boss, perché ci sono molte abilità speciali che hanno un funzionamento particolare per essere evitate. Ah, un'altra cosa, i livelli, i mostri comuni dei livelli e i boss sono veramente, veramente belli. Sono belli ed ogni livello i mostri sono tutti diversi. Non ce n'è nessuno che è sempre lui col colore diverso. Hanno anche molte animazioni. Hanno molte animazioni. Ci sono anche i nemici hanno le debolezze e le resistenze. Per dire, nel primo livello trovate degli zombie con l'armatura volante che vi rompono le palle. Detto papale, per ucciderli dovete avere il brand del vento, perché sennò l'armatura non gliela spaccate e loro continuano a rompervi le palle. E quindi l'unico modo è avere il brand del vento, che l'ho trovato un po' più avanti. Povero Firebrand. Però si evitano facilmente, quindi non preoccupatevi. Se avete diciamo che il fatto che... Sì? No, finisci, è una cosa... Se avete dei problemi con alcuni boss, basta che andate nell'altro mondo, che ce ne sono sempre due, e trovate il brand giusto. No, volevo dire, il fatto che ho tentato Abandon, lo si può tranquillamente giocare con un emulatore. Sì, sì. Anche senza comprare, anche senza spendere 250 euro. Sì. Anche perché gli emulatori del Super Nintendo funzionano tutti ottimamente. Sì. Anche perché le copie sono copie vecchie, quindi dovrebbero tecnicamente finire dopo un po'. Non è che lo trovi per forza. Se vi piacciono i platform, Demon Crest è un must, come Super Metroid, Mega Man e tutti gli altri grandi del passato, degli action platform del passato. Sì, perché media ha più di 10 mondi come minimo. A ogni mondo ci sono due boss, uno è segreto e l'altro più o meno obbligatorio. Ah. Ci sono un sacco di oggetti segreti, i boss hanno delle abilità speciali che bisogna capire come evitare. Diciamo che ha qualcosa in più dei Castlevania e Ghost and Goal, che sono platform fine a se stessi. Sono lineari quelli. Sono... com'è che li chiamano? Sì. Praticamente usano questo esempio. Metroid Prime all'inizio era Metroidvania. Perché il genere con cui indicano i vecchi Castlevania in cui devi solo fare i livelli e ammazzare i boss. Poi dopo sia Castlevania per il DS che i Metroid del GameCube diventano quel tipo di giochi dove devi cercare i potenziamenti per i mondi per aprire nuove strade. Beh, ma lo stesso Castlevania di Symphony of the Night su PS1 era già... Sì, sono quelli del Super Nintendo che erano tutti lineari, come il Dracula e Super Castlevania 4. E i primi tre Castlevania. No, il secondo no. Il secondo tu dovevi girare e trovare i pezzi di Dracula. Sì, è vero. Esatto. È vero, il secondo era già Metroidvania. La trama era assurda, però. Sì, perché tu non sai dove devi andare. No, non per quello. Simon ha ucciso Dracula. Però si è accorto che adesso lui morirà. Cioè, no, lui è stato contagiato. È stato morso, devi sì, è stato morso, quindi appena sorgerà il sole morirà. Allora deve ricomporre Dracula, resuscitarlo e riucciderlo. Sembra una parodia. Sì, infatti. E in più c'è la gente che vuole... I mostri vogliono impedirgli di ricomporre Dracula. Cioè, non altri cacciatori di vampiri, vabbè. Dicevo, niente, l'unica cosa da dire, le abilità dei mostri sono molto belle, mi ricordo sempre una delle tante battaglie che farete con armi, il rivale di Firebrand, che lui utilizzerà contro di voi il brand del vento e vi tira un tornado. Questo qua. Esattamente. Il modo per evitarlo è volare dentro al tornado, perché voi potete volare. Se volate, salite fino in cima allo schermo e evitate il suo colpo che vi viene incontro, tipo attacco rapido. E in più ha una cosa molto carina Fireblend, sa attaccarsi sui muri per fare il doppio salto. Sì, è una cosa che facevano i demoni come lui in Super Ghost and Ghoul. Sì, Si esatto, attaccano sui muri. perché il povero Firebrand nella saga di Ghost and Ghoul è un mostro comune, il più stronzo dei mostri comuni, però è un mostro Finisce alla comune. metà di solito. È quello che vi viene addosso, cioè fa l'arco dall'alto verso il basso e vi viene addosso, non so se è presente. Andiamo nei rossi in mutande. Sì, è mutante. Sì, è È un mutante. gargoyle. Vabbè. Banalo. Ah, io ero banano, ma fa fatica perché comunque io di finali ne ho fatto uno su tre, non li ho fatti tutti. Ma hai fatto banano? Vabbè, gli diamo 4,5, ma perché non ho fatto il finale, quello decisivo, mi mancava un oggetto per andare all'ultimo È finale. tosto, è tosto. È Non puoi tosto. salvare anche, mi sa. No, sono le password. Che tipico della Capcom. Basta, banana. E allora, siamo arrivati a 1 ora e mezza. Se volete continuare un altro po', se no ci fermiamo. Io direi che ho Vai. finito. Io volevo aggiungere che ho trovato il nome del marito Ah. della Jensen. Si chiama Robert Holmes. Ok. Basta, non serve a nessuno, però almeno lo si sa. Esatto, Almeno lo sappiamo. Lo Esatto. sappiamo. Se no possiamo aprire una piccola parentesi freeware per consigliare un bel gioco freeware italiano. Va bene. C'è l'avventura grafica che ha portato alla formazione, sì, di quella che era la compagnia indipendente Athena Games, ovvero l'esordio nel mondo dei videogiochi di Andrea Ferrara, April Skies, ed è Colline al tresor della Muette Noire. Non so se Voilà. l'ho pronunciato bene. Nuet Noir. Allora, Colline al tresor della Muette Noire. Una chicheria. E nonostante il francesismo del nome, il gioco è ambientato Bretagna, in solo. Bretagna, sì, vabbè, nella parte dove parlano francese della Gran Bretagna, nella costa. Ed è un'avventura grafica punta e clicca sviluppata con Adventure Maker. E la cosa sorprendente è che Adventure Maker è fatta apposta per fare quelli in prima persona e lui Infatti, cioè, è riuscito a farne una in terza, non si sa come. è spettacolare questa cosa. È un genio. Infatti dopo lui è passato da GS e in un Ah. giorno a usare AGS è diventato più bravo di me che lo pratico da 5 anni. Cioè, la demo del suo gioco è più pulita in animazioni, più priva di bug di qualsiasi mio gioco fatto in questi 5 anni. Com'è che si chiama? Che è un po' difficile il nome. Colline, Colin. è il tresor Tresor. della Mouette Noire. Noire. E praticamente parla di Colline, questa studentessa universitaria di archeologia, che va a trovare suo zio, in questo momento non mi ricordo il nome dello zio, No, anche io. Albert, Sì, lo zio Albert, Hubert, Hubert. lo zio Albert, Albert, sì. Albert, Albert. in una città di questa costa dove si parla francese, Ah, giusto, Bretagna. della Bretagna. Solo che quando arriva scopre che, anzi no, lei arriva sapendo che suo zio è già sparito. Sì, lo vuole ritrovare, Sì, semplicemente. suo zio è sparito nel nulla da 3 settimane e nessuno sta facendo niente. Quindi lei va là a cercarlo, a chiedere in giro se qualcuno sa dove possa essere, soprattutto a chiedere alla polizia perché non stanno facendo Ma niente. inoltre sa anche che suo zio sta facendo una ricerca prima di scomparire, una Sì, ricerca questo è un importante. classico delle avventure investigative, cioè il personaggio che scompare aveva appena scoperto qualcosa di importante. Sì. E quindi abbiamo una settimana di tempo in cui Colin cercherà indizi in città per trovare suo zio. E niente, l'avventura è molto difficile, ma mediamente difficile, logica, non ci sono enigmi assurdi, è molto ben scritta, programmata e anche ottima grafica. E poi il fatto che è fatta con Adventure Maker in terza persona cioè, è una roba in più, è stranissima sta cosa. Sì, diciamo che la terza persona gli dà dei caricamenti un po' più lenti, però guadagna. L'unico problema è che a causa del tempo, Andrea ha usato delle foto che ha ritoccato con Photoshop. Sì, infatti ho visto degli screenshot. Mentre in Donald Owl, il gioco che sta sviluppando adesso, sta disegnando a mano e ha dimostrato che lui a disegnare a mano è bravo, bravo, bravo, quindi. Ah. Vabbè, comunque, nonostante questo, le mappe sono belle e danno l'idea del posto in cui sono molto rurale in cui si trovano. Quindi, niente, se volete provare Colleen, è una buona avventura punta e clicca, logica e per passare il tempo, anche una buona longevità. Sì, ha 6 capitoli. 6 capitoli di Isop, non sono mica pochi. Ok, detto questo, anzi, Colin l'ho finito e gli do 3 banane. Anche considerando che è il suo primo lavoro amatoriale ed è ineccepibile, quindi. Bene. Beh. Direi che possiamo chiudere qui allora. Facciamo i saluti. Allora, Riccardo Prati. Ciao, alla prossima. Più enfasi, voglio più Ma enfasi. come più enfasi? Come fa Capitan Ti Fausto? Sono aiuto capace di io, mettere come enfasi. tutte le volte ti aiuto io. Show me a moves. Ecco. Poi abbiamo Marco Giardi, Girardi. Girardi, ecco dove sono. Gira, Perché ciao ciao a nella tutti. mail mi è venuto scritto Marco Giardi. Davvero? Sì. Allora vuol dire che avrò sbagliato anch'io a scrivere il cognome nella mail. Beh. Lo vado subito a sistemare. Ok, fai i tuoi saluti. Intanto vi saluto, ciao a tutti. Claudio. Ciao a tutti e non dimenticatevi i vostri brand a caso. E anche Vario Punk vi saluta e vi invita alla prossima puntata. Buia!